Radio 24 Reportage. Le radici dell'indipendenza catalana di Sergio Nava. Se c'è una data alla quale il movimento indipendentista catalano lega le proprie radici storiche, è quella dell'11 settembre 1714. In quel giorno, che i catalani festeggiano religiosamente ogni anno, ricordando a se stessi che le proprie radici affondano in una sconfitta, le truppe borboniche fecero il loro ingresso a Barcellona, cancellando l'ampia autonomia di cui godeva la contea, che faceva parte della Corona di Aragona. Un episodio storico celebrato anche in un popolarissimo romanzo di Albert Sánchez Piñol, Victus, pubblicato 5 anni fa e trasformatosi subito in un bestseller. Il 1714 è una data talmente sentita nella Catalunya odierna che il minuto 17 e 14 secondi delle partite tra Barcellona e Real Madrid viene scandito, come state ascoltando, dalle grida pro-indipendenza dei tifosi della squadra catalana. Non dimentichiamoci che il Barça è stato per anni, ed è considerato tuttora, l'esercito senza armi della Catalunya. Un'altra tappa fondamentale nella storica contrapposizione tra Barcellona, borghese e commerciale, e Madrid, imperiale e centralista, arriva con la guerra civile. Il 26 gennaio 1939 le truppe di Francisco Franco arrivano al Tibidabo, sulle colline che sovrastano la città, decretando la fine della ribellione antifascista. La Spagna non solo entra in una dittatura lunga quasi 40 anni, ma il sogno repubblicano di Barcellona, singolare paradosso di città borghese governata dagli anarchici, si infrange sugli scogli della storia. Sulla capitale catalana e sul resto del paese cala il buio della dittatura, delle torture, delle esecuzioni sommarie. La lingua catalana viene proibita, vietata ogni forma di indipendentismo. Fue un auténtico clamor la Diada Nacional de Cataluña, celebrada en la histórica jornada del 11 de septiembre. Barcelona se vio invadida desde primeras horas de la mañana por miles de catalanes dispuestos a manifestarse jubilosa y pacíficamente. Il 1977, in piena transizione, ritornano libertà ormai dimenticate. Si torna a votare liberamente, si intravede una maggiore decentralizzazione dello Stato spagnolo, con una progressiva delega di poteri e responsabilità alle comunità autonome, tra queste appunto quella catalana. La Diada del 1977 porta in piazza a Barcellona 1,5 milioni di persone per chiedere l'autogoverno della comunità. Con gli anni le comunità autonome ottengono effettivamente maggiori poteri, si torna anche a parlare le lingue locali e il catalano diventa de facto la prima lingua regionale. La rottura moderna tra Barcellona e Madrid affonda invece le proprie radici nel periodo che va dal 2006 al 2010. 11 anni fa il Parlamento spagnolo adotta una versione riformata dello Statuto catalano, che rafforza ulteriormente l'autonomia della comunità, introducendo il termine di nazione all'interno dello Stato. Per il Partito Popolare, oggi al potere, è troppo. Presenta ricorso e, 4 anni dopo, il Tribunale Costituzionale fa a pezzi lo Statuto. Luca Bellizzi, delegato del governo catalano in Italia. Credo che proprio lo statuto, la riforma dello statuto approvata nel 2006, ci tengo a ricordarlo, con una larghissima maggioranza del Parlamento catalano, con un'ampia maggioranza della scorta spagnola e referendato per il popolo catalano, è stato appunto portato al Tribunale Costituzionale attraverso una raccolta di firme organizzata dal Partito Popolare Spagnol. Tutti possono trovare in internet la famosa fotografia di Mariano Rajoy con le casse delle firme proprio per portare davanti al Tribunale Costituzionale lo Statuto di Catalogna. Curioso che alcuni articoli proprio di quel famoso statuto siano uguali in altri statuti di altre comunità autonome, in questo caso non sono stati portati davanti al Tribunale Costituzionale e quindi nel loro caso questi articoli sono rimasti vigenti. Nel caso di Catalunya una sentenza del Tribunale Costituzionale del 2010 ha ritagliato molti di questi articoli. La sentenza del 2010 è il punto di svolta nel sentimento catalano che, se fino ad allora era maggioritario a riconoscere la sovranità del popolo di Catalunya a poter decidere il proprio futuro, comprende che trovare un proprio incastro in una Spagna che non si riconosce come plurinazionale è impossibile. Nel 2010 solo il 20% dei catalani credeva nell'indipendenza. Negli anni successivi, gli anni di un confronto sempre più aspro sull'asse Barcellona-Madrid, la percentuale è più che raddoppiata. L'ironia è che ad accendere la miccia è stato il Partito Popolare, che ora, dal palazzo governativo della Moncloa, si trova a dover gestire una situazione senza precedenti. La crisi economica, che ha stretto in una morsa pesante l'intera penisola iberica, portando Madrid a chiedere un ingente aiuto all'Europa per ricapitalizzare il proprio settore bancario, ha fatto il resto. La Catalunya, che da sola detiene il 20% del PIL del paese, lamenta da sempre di versare alle casse centrali più di quanto non riceva. Nei momenti di crisi, questi squilibri emergono prepotentemente, soprattutto se alla base c'è una rivendicazione identitaria. Los partidos pro consulta están viviendo este 9 de noviembre como una fiesta de triunfo democrático. Artur Mas votaba esta mañana sí, sí, entre aplausos y mucha expectación. Hace apenas una hora el presidente llegaba al Palacio de la Generalitat. Aquí previsiblemente... Il 9 novembre 2014 i catalani vanno a votare per una consultazione non vincolante al culmine di 4 anni nei quali la corrente indipendentista aveva guadagnato terreno e consensi. Non fra tutti i cittadini catalani, questo sia chiaro. Varie indagini demoscopiche hanno registrato una crescita del sostegno alla causa indipendentista, più o meno equivalente ormai a chi non intende invece lasciare la Spagna. Ma una cosa è praticamente certa: la maggioranza dei catalani vuole votare per decidere il proprio futuro, dentro o fuori la Spagna. Alla consulta del 2014 partecipa il 37% degli aventi diritto. La vittoria degli indipendentisti è netta. Sentiamo ancora Luca Bellizzi. Non si trattava di un referendum né di una consultazione, è stato un processo partecipativo. La volontà era quella che potesse essere un referendum. Ricordo che il governo della Catalogna ha richiesto fino a ben 18 volte al governo spagnolo la possibilità di celebrare un referendum. La risposta è sempre stata no. Una delle prerogative riconosciute dallo Statuto di autonomia, proprio quello di cui parlavamo prima, riconosce all'autonomia, al governo della Catalogna, la possibilità di indire delle consultazioni non vincolanti. Il Tribunale Costituzionale sospese il loro decreto di convocatoria di questa consultazione e da allora, il 9 di novembre, si trasformò in un processo partecipativo organizzato dalla società civile. Il risultato fu ovviamente chiaramente a favore del sì, con una partecipazione di 2.400.000 persone che parteciparono, se vogliamo, proprio a una macro inchiesta, a una manifestazione alla quale lo Stato spagnolo si era opposto in tutti i modi. La differenza con il referendum del 1 ottobre è che la volontà del governo di Catalogna è che il referendum del 1 ottobre sarà vincolante e quindi si inserisce in una legalità emanata dal Parlamento di Catalogna che lo riconosce come tale. Dopo, siamo a fine 2015, i catalani tornano a votare. Di fronte all'incertezza sul futuro del cammino di autodeterminazione, i principali partiti regionali decidono di sparigliare le carte. L'allora Convergència, una sorta di DC catalana, passa armi e bagagli nel fronte indipendentista, abbandonando le storiche cautele dell'epoca di Jordi Pujol. Forma un asse con la sinistra di Esquerra Repubblicana e altre formazioni secessioniste. La lista comune si chiama Junts pel Sí. Vince le elezioni autonomiche, ma non ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, obiettivo a cui ambiva. Per governare si deve allora alleare con la formazione di estrema sinistra CUP, ancora più decisa ad arrivare all'indipendenza. Nell'ottobre dello stesso anno prende il via ufficialmente il processo indipendentista. Inizia dunque un cammino parlamentare che si completa poco più di 3 settimane fa, quando il Parlamento catalano, in 2 infuocate sessioni, vara prima la convocazione del referendum sull'indipendenza del 1 ottobre e subito dopo la legge per il periodo di transizione in caso di vittoria del sì. Il governo spagnolo fa sospendere entrambe le leggi dal Tribunale Costituzionale. Lo scontro politico fra treni tra Madrid e Barcellona esplode in tutta la sua violenza. Arresti di alti funzionari catalani compresi, il resto è storia degli ultimi giorni. Una storia figlia di anni di sottovalutazione della questione catalana. Barcellona ha perseguito scientemente i propri propositi indipendentisti, come sostiene Madrid, oppure il governo centrale ha volutamente umiliato ogni tentativo di maggiore autonomia fiscale e politica di una comunità culturalmente e storicamente diversa, come sostiene Barcellona? La risposta è troppo complicata da fornire. Un giorno la fornirà la storia, almeno così speriamo. Ciò che abbiamo chiesto a Luca Bellizzi, delegato del governo catalano in Italia, è di spiegarci perché Barcellona e la Catalogna meritino la possibilità di un'indipendenza. Credo che il 1 ottobre, più che parlare di referendum, di indipendenza, la parola che contraddistingue proprio il 1 ottobre è la parola democrazia. Quello che noi stiamo dando è l'opportunità ai nostri cittadini e cittadini di Catalogna di potersi esprimere prima di tutto democraticamente, pacificamente e decidere il proprio futuro. Credo che questa è proprio la prima richiesta che arriva dal popolo di Catalogna e da qui è la decisione, se vogliamo, il sentimento indipendentista che negli ultimi anni è andato aumentando in Catalogna, nasce invece proprio da un atteggiamento da parte dello Stato spagnolo di non voler riconoscere questa sovranità del popolo catalano a poter decidere liberamente. C'è anche una componente però identitaria, o è preponderante la voglia di poter decidere? La nazione catalana è millenaria, nasce già nell'epoca medievale, quindi questo sentimento di sentirsi, identificarsi come nazione, viene da lontano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.